Napolitano si commuove ricordando l'olocausto. Bisogna stroncare sul nascere i rigurgiti di negazionismo, dice. In Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni. Fra le ipotesi, viaggi agevolati per giovani e anziani. 11.000 euro a ciascun passeggero della Costa Concordia, lo prevede l'accordo fra la compagnia e i consumatori. Gabrielli, il relitto è stabile. Ancora un blitz contro la 'ndrangheta in Lombardia e spuntano possibili legami con i servizi segreti. Una giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Si commuove due volte ricordando i fatti della Shoah al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella cerimonia al Quirinale. Una scuola di memoria ha detto: questo impegno rappresenta il miglior antidoto a quei rigurgiti di negazionismo e antisemitismo, di intolleranza e di violenza che, per quanto marginali, sono da stroncare sul nascere. Sentiamo le parole del Capo dello Stato. Il primo a rivolgersi ai tedeschi perché apprendessero l'estremo orrore del nazismo fu, con i suoi radiomessaggi dall'America, un grande tedesco costretto all'esilio. Il 14 gennaio del 1945, mentre Hitler teneva ancora nella distruzione e nella menzogna una Germania sull'orlo del collasso, Thomas Mann rivelò agli ascoltatori tedeschi che gli inviati della neutrale Svizzera in missione umanitaria avevano potuto vedere, prima che con la liberazione se ne aprissero i cancelli, i campi di Auschwitz e Birkenau, dove nel giro di un anno, tra il 43 e il 44, erano stati uccisi 1.715.000 ebrei, e videro quegli inviati svizzeri, disse Mann, quello che nessun uomo sensibile è disposto a credere se non l'ha visto con i propri occhi. E ieri sera toccante cerimonia alla Sinagoga di Roma, dove sono stati ricordati 216 bambini ebrei romani morti nei campi di sterminio. A raccontarcelo questa mattina il presidente della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici, al microfono di Anna Migliorati. Il momento più difficile per tutti, penso, per quelle migliaia di persone che erano alla sinagoga, è stato il momento di vergogna, è un paradosso, di una delle sorelle Bucci, quando Tatiana ha spezzato la voce dalle lacrime, ha detto che lei si vergognava, da bambina sopravvissuta alla Shoah, di essere tornata. E questo credo che sintetizza un po' il sentimento di tutti e di quella che è stata la capacità dei nazisti di ribaltare quella che è la normalità. È vero che oggi siamo il paese, e io da italiano ne sono orgoglioso, che più di ogni altro in Europa e forse nel mondo promuove iniziative a tutti i livelli. Questa mattina andremo per esempio al Quirinale, paradossalmente a compimento non della giornata della memoria ma di un mese intenso. È anche vero però che è il paese che ha partorito il fascismo. E dal Consiglio dei Ministri che deve dare oggi il via libera al decreto sulle semplificazioni. In diretta Vincenzo Miglietta. L'ultimo giorno è così, dopo i provvedimenti per il rigore e le liberalizzazioni è il momento delle semplificazioni, tutte misure queste nelle intenzioni dell'esecutivo destinate a ridurre gli oneri per cittadini ed imprese, sia strettamente economici che amministrativo-burocratici. Nel dettaglio degli interventi si va da un ulteriore taglio alle leggi cosiddette inutili, sarebbero oltre 300, al ritorno della social card, questa avrà una dotazione di 50 milioni, il bonus assunzioni al sud viene prorogato al 2013, la spesa per l'assistenza sociale verrà monitorata dall'INPS, che invierà segnalazioni in caso di incoerenza dei dati. I versamenti allo stesso INPS da maggio non potranno essere più in contanti, si semplifica la procedura per l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanze complesse, salta l'obbligo di chiusura domenicale per i panificatori ed ancora novità per la carta d'identità e il cambio di residenza, per la circolazione dei TIR, per il controllo dei gas di scarico, cancellati i mini debiti con il fisco. Arriva la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda di digitale italiana, infine il capitolo turismo, i beni confiscati alle mafie e laddove adatti saranno destinati ai giovani per attività di settore, si prevedono inoltre viaggi low cost per giovani ed anziani. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Non ci sono rischi che il relitto della Concordia si muova, lo ha detto Franco Gabrielli, commissario per l'emergenza al Giglio. Intanto accordo raggiunto fra la compagnia Costa Crociere e le associazioni nazionali dei consumatori per l'indennizzo dopo il naufragio della nave appunto al Giglio. 11.000 euro a ciascun passeggero arriveranno subito, poi ci sono altre cifre che dipendono da vari elementi, come ci spiega Pietro Giordano, segretario generale a Adiconsum, al microfono di Katia Caramelli. C'è da dire che non è un accordo vincolante, è un accordo che riguarda chi vuole accettare questo tipo di risarcimento, non riguarda logicamente chi è stato ferito, chi purtroppo è deceduto, ma chi semplicemente è stato colpito da danni psicologici, cioè l'aver subito un trauma come quello richiede un risarcimento, che per le leggi internazionali è molto ma molto più basso di quanto noi abbiamo strappato. Questo è un accordo che farà scuola su tutto il mondo, perché purtroppo il diritto di navigazione non prevede risarcimenti così ampi. E liquidi sono 11.000 che verranno risarciti immediatamente. Poi si lasciano tutta una serie di indennità, chi aveva l'assicurazione, di solito che cosa si fa? Quando si ha un'assicurazione si fa il conguaglio con l'assicurazione che si ha, invece restano intonse tutti gli altri risarcimenti e la media logicamente è intorno ai 4.000, quindi sono 11.000 più 4.000. Il tasso di disoccupazione in Spagna è volato al 22,9% nel quarto trimestre dello scorso anno, dal 21,5% del precedente trimestre. Il dato è più del doppio della media europea e ai massimi da 17 anni. A fine 2011 il numero dei senza lavoro in Spagna si è avvicinato ai 5,3 milioni. Allarmante la situazione per gli under 25. Oltre la metà, il 51,4%, è senza impiego rispetto al 45,8% di settembre. Bisogna evitare che la crisi in Grecia crei un'enorme volatilità sui mercati, a parlare così il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, secondo cui il fondo non è particolarmente ottimista su quello che si è fatto rispetto alla crisi del debito greco. La Lagarde ha parlato al World Economic Forum di Davos, dove questa mattina è stata la volta anche del segretario al Tesoro americano Timothy Geithner. Ci racconta tutto in diretta Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Sì, buongiorno. Garner ha parlato stamattina, ma dopo di lui hanno parlato anche François Baroin, ha parlato Olli Rehn, ha parlato Wolfgang Schauble, cioè praticamente tutti quelli che dovrebbero risolvere il problema della grande crisi occidentale hanno parlato. Hanno parlato per dire ognuno la sua, senza dare l'idea di quel concerto, unità di intenti che invece il forum sperava di sentire, anche gli investitori di tutto il mondo speravano di sentire. Geithner ha semplicemente detto che per loro il debito americano non è un problema, mentre invece lo è quello europeo. Loro sono ottimisti per quanto riguarda l'America, non ha speso una parola per l'Europa, ma ancora meno ha speso le parole che ci si aspettava di sentire il ministro delle finanze tedesco, ognuno, cioè, che ha ripetuto più o meno quello che già aveva detto un paio di giorni fa, aveva detto Angela Merkel. Quindi sostanzialmente ognuno continua per la sua strada, tutti con un pessimismo di fondo, senza cercare di trovare una soluzione che, appunto, come dicevo, in un concerto generale nel quale tutte le posizioni trovino il loro spazio. Grazie. E così continuerà Davos. Grazie, come ci continuerai anche a raccontare in diretta. Grazie mille a Ugo Tramballi, collega del Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa: Silvio Berlusconi, attraverso il suo legale, è pronto a ricusare i giudici di Milano del processo Mills. Da quanto si è appreso, i suoi avvocati stanno scrivendo l'istanza di ricusazione dopo i contrasti con i giudici sul calendario delle udienze e sul taglio dei loro testimoni. Il governo ungherese deve fare tutto il possibile per dissipare l'impressione di voler prendere il controllo della banca centrale del paese, lo afferma il responsabile del Fondo Monetario Internazionale per l'Ungheria, Christoph Rosenberg. Continua il pressing intanto su Budapest per modificare leggi in materia di economia e anche di libertà di stampa, come ci racconta qui in diretta Gigi Donelli. Sì, buongiorno Piero, un saluto agli ascoltatori. Quello che sentite in sottofondo, eccolo qua, è Ryan Heath, che è il portavoce della Commissione e della commissaria Nelly Kroes, responsabile per i media, per le informazioni in Europa, che questa mattina ci ha spiegato quelle che sono le iniziative di Bruxelles nei confronti del governo ungherese sul fronte appunto della libertà di stampa. Allora, il primo atto, e devo dire è stato piuttosto forte, è stato l'incontro del commissario Kroes con il proprietario di Club Radio. Allora, Club Radio è la radio di informazione in ungherese di cui vi abbiamo raccontato peraltro la settimana scorsa nello spazio dei reportage, che è diventato un vero e proprio caso simbolo della situazione nel paese dell'Europa centrale. E l'incontro, piuttosto inconsueto, è un chiaro segnale di come la Commissione non creda alla liceità della gara sulle frequenze, che di fatto sta togliendo 8 delle 11 frequenze di trasmissione a quella che è la radio di informazione critica più importante d'Europa. Insomma, l'Europa non molla la presa, in questo caso almeno sembra. Barroso il 18 gennaio scorso l'aveva detto in Parlamento appunto europeo a Strasburgo, e sembra davvero che su questo tema in fondo l'Europa abbia deciso di investire anche un po' di quella richiesta di presenza politica che viene mossa da tante parti. Solo una nota in conclusione. Il tema della libertà di espressione e del controllo dei media non riguarda solo l'Ungheria. Il rapporto presentato 2 giorni fa dedica un capitolo anche alla Francia e uno all'Italia. Insomma, un tema che riguarda l'Ungheria, ma che soprattutto riguarda l'Europa nel suo insieme. Grazie, grazie a Gigi Donelli. Ed ora lo sciopero dei mezzi pubblici, che sta mandando in tilt le nostre città, e ce ne saremo accorti andando al lavoro questa mattina. Sentiremo in modo dettagliato fra poco dai colleghi di Strade in Diretta come la situazione. Noi invece ora ci colleghiamo con Roma e con il nostro Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì Piara, buongiorno, ti sto parlando dalla stazione Termini di Roma, dove sono molte in questo momento le persone in attesa alle fermate e ai capolinea di autobus e tram che comunque stanno circolando, anche se con qualche disagio perché il servizio è ridotto, visto che a Roma, come in altre città, sta avendo ripercussioni soprattutto nel settore del trasporto pubblico lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base contro il governo Monti. Le corse sono ridotte anche per quanto riguarda la metropolitana, tra l'altro in alcune fermate stamattina le scale mobili, in alcune fermate della metropolitana le scale mobili stamattina non erano in funzione per mancanza di personale. Secondo l'ATAC, che è l'azienda del trasporto pubblico capitolina, a mezzogiorno l'adesione allo sciopero era attorno al 40%. A rendere più complicati gli spostamenti in città stamattina c'è stato anche il corteo proprio dei sindacati di base, corteo che si sta concludendo a Piazza San Giovanni, era aperto da molti striscioni contro la macelleria sociale del governo Monti e dei banchieri. Proprio diverse banche durante il corteo sono state prese di mira da un lancio di uova da parte dei manifestanti. Per ora da Roma è tutto. Napolitano si commuove ricordando l'Olocausto, bisogna stroncare sul nascere rigurgiti di negazionismo, dice. In Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni, fra le ipotesi viaggi agevolati per giovani ed anziani, certificati online in tempo reale. 11.000 euro a ciascun passeggero della Costa Concordia, lo prevede l'accordo fra la compagnia e i consumatori. Gabrielli, il relitto è stabile. E ripartiamo dalla cronaca con il nuovo blitz in Lombardia contro la 'ndrangheta. Ancora nel mirino i Valle Lampada. In diretta Raffaella Calandra. In una conversazione intercettata Leonardo Valle lo ammette: questa è una storia che non finisce, dice. Di sicuro questa indagine contro la zona grigia della 'ndrangheta è una storia che va avanti tra Milano e Reggio Calabria e che con gli ultimi 5 arresti di oggi individua altre possibili talpe al servizio dei clan e apre nuovi inquietanti scenari di soffiate, di relazioni che finiscono nelle mani degli indagati, di atti falsificati e di un legame che, se confermato, sembrerebbe condurre fino ai servizi segreti in un contesto tutto da chiarire. Il nome di Nicola Pollari, come scritto negli atti, o meglio di Nick, secondo le trascrizioni delle intercettazioni, è fatto da Vincenzo Minasi, avvocato già arrestato nell'ultima tranche dell'inchiesta e che sta collaborando con gli inquirenti, come riporta nell'ordinanza il GIP Giuseppe Gennari. È lui, Minasi, a supporre, per usare le sue stesse parole a verbale, che il Nick che tranquillizza Francesco Morelli, consigliere regionale calabrese già arrestato, il Nick che rassicura sulle indagini ma che suggerisce anche di nominare un avvocato ben inserito come Coppi, sarebbe Nicola Pollari. Si tratta dell'ex capo del Sismi? È questo un filone tanto opaco quanto importante in queste indagini sulla zona grigia, che ancora una volta confermano la centralità delle informazioni usate come merce di scambio cambio. Sarebbe poi un colonnello del ROS dei Carabinieri, di Reggio, la fonte che permette ad un altro degli arrestati di avere informazioni direttamente dal PC dei Carabinieri. 40.000 euro al mese invece era il compenso per tre finanzieri meneghini, considerati a libero paga dei clan, come il direttore di un hotel di lusso, il Brunno, usato come base logistica del gruppo. Forse ha ragione proprio Valle, questa è una storia che non finisce, almeno per ora, ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Un'alleanza fra i camorristi del clan dei Casalesi e la famiglia mafiosa Riina Messina Denaro, 6 le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Fra i destinatari Nicola Schiavone, figlio di Francesco, il cosiddetto Sandokan, e Gaetano Riina, fratello del capo dei capi. Sono gli stessi per i quali il riesame aveva annullato la misura, ritenendo che il GIP avesse copiato e incollato la richiesta della procura. I Casalesi, in cambio del monopolio dei trasporti per una propria ditta, garantivano a grossisti organici alla mafia la vendita in esclusiva di prodotti ortofrutticoli siciliani in mercati di Campania e Lazio. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Colpendo tutti i giorni gli evasori fiscali, l'ultima cosa che ci saremmo aspettati è di essere premiati dagli artigiani. E invece è proprio così, perché chi non paga le tasse rovina anche chi invece le paga. La lotta contro l'evasione fiscale, quindi, degli artigiani onesti parte da Lucca, dove domani si terrà una tavola rotonda organizzata dall'associazione CNA. Perché chi evade non crea solo un danno alle casse dello Stato, ma fa anche concorrenza sleale a quelle imprese e quegli artigiani che lavorano onestamente e che contemporaneamente devono pagare tasse sempre più onerose. Il presidente Ugo da Prato. In tanti lo fanno non sapendo che creano un problema al sistema paese. Vogliamo portarli a stare dentro le regole per una crescita di tutto il paese. È chiaro che in parallelo, e lo chiediamo fortemente, ripeto, una nuova riforma fiscale, perché tante imprese chiudono, perché con la pressione fiscale, specialmente le piccole, hanno ormai dei costi di gestione così alti che non ce la fanno più a stare sul mercato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I cittadini italiani scendono sotto i 56 milioni, 65 mila in meno rispetto al 1 gennaio dell'anno scorso, mentre gli stranieri residenti nel nostro paese salgono a 4 milioni 859 mila, circa 300 mila in più, e rappresentano l'8% della popolazione complessiva, a rivelarlo gli indicatori demografici dell'Istat. Un elogio al presidente della provincia di Pesaro Urbino è arrivato dal Quirinale per un'iniziativa che, in attesa della riforma legislativa, intanto farà avere la cittadinanza onoraria a oltre 4.000 bambini figli di stranieri. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della provincia Matteo Ricci, esponente del PD. È un modo per non far cadere nel vuoto l'appello che Napolitano ha fatto rilanciando questa grande sfida culturale, cioè che chi nasce in Italia è italiano. La nostra storia di tante persone che negli anni 50 lasciarono questa terra per andare a lavorare nelle miniere in Belgio, in Francia, in Germania, e di conseguenza forse qui più che altrove si capisce che è una battaglia di civiltà riconoscere la cittadinanza che è nato qua. Sono 4.400 i bambini nati nella nostra provincia e da cittadini stranieri. Abbiamo lanciato l'appello perché la cittadinanza onoraria viene rilasciata dai comuni, ha risposto subito positivamente il comune capoluogo Pesaro, e siamo in attesa di una data del ministro Riccardi per fare la cerimonia di consegna di questi attestati, che verranno consegnati insieme alla Costituzione italiana e insieme alla maglietta della nazionale, perché proprio lo sport ha aiutato molto in questi anni a far crescere i valori dell'integrazione. No alla cittadinanza italiana in automatico a chi nasce in Italia, dice invece l'esponente PDL Daniela Santanchè al microfono di Alessandro Milan. Non basta nascere in Italia, perché se una persona viene in Italia perché il figlio debba avere la cittadinanza italiana e va via dopo 2 mesi, questo non starebbe in piedi. Bisogna vedere se chi può avere la cittadinanza italiana vuole essere italiano, amare la patria, essere cresciuto in un'educazione nel rispetto della nostra cultura, delle nostre tradizioni, non soltanto delle nostre leggi. È un problema culturale, perché io vorrei sapere un bambino che nasce in Italia, che poi viene educato nel nome della Sharia, della poligamia, dell'infibulazione se deve essere cittadino italiano. Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Che mi diverto a farlo? Ma in quei momenti al cinema il giorno di ACAB, All Cops Are Bastards, tesissimo film tratto dal libro di Carlo Bonini, racconta una squadra violenta di celerini fra sgomberi di campi nomadi, assalti di tifosi e violenze personali. Un film che non giudica ma racconta l'odio dei nostri giorni. Fra i protagonisti, due degli attori del momento, Pier Francesco Favino e Marco Giallini. Li ha intervistati Marta Cagnola. Particolarmente quando hai a che fare con delle persone che appartengono a un'istituzione, sembra che la tua idea non abbia a che fare con gli individui, ma che ha a che fare quindi con un gruppo di persone di cui, per una tara nazionale, noi siamo abituati a pensare che fondamentalmente sono quelli che ti costringono a seguire le regole e non che garantiscono che le regole che tu hai scelto di seguire vengano condivise. E in questa differenza di punto di vista c'è molto più di quanto uno si immagini. C'è la frustrazione di questi uomini, c'è l'isolamento di questi uomini, c'è il nostro continuare a vederli come quelli che ci rompono le scatole, e c'è quindi anche nell'interpretazione errata di alcune cose la possibilità che questa sensazione di solitudine, di isolamento da parte di queste persone venga scambiata per una possibilità di decidere da sé quali sono le regole e la legalità da seguire. E siamo alla pagina sportiva, qui accanto a me naturalmente il nostro Carlo Genta. Buongiorno. Ciao, Carlo. Ciao, buongiorno. Allora, mano pesante del giudice sportivo dopo le gare dei quarti di Coppa Italia che si sono conclusi ieri sera con la qualificazione del Milan. Sì, si sono conclusi finalmente dopo una settimana in cui continuiamo a vedere partite serali. Qualificazione del Milan ieri sera, 3-1 alla Lazio, semifinale dunque dei rossoneri contro la Juventus, ma di questo si riparlerà. Ciò che conta è che i giocatori sono stati parecchio birichini in questo turno, in questo giro di Coppa Italia. L'ultimo, Diaz, laziale, che ha colpito con un pugno Van Bommel ieri sera al 18° della ripresa nell'area del Milan. Le immagini TV lo hanno smascherato, il giudice sportivo oggi gli ha rifilato 3 giornate di squalifica. Ricordiamo che le squalifiche comunque dovranno essere scontate in Coppa Italia. Squalifiche anche per il romanista Lamela, 2 giornate, e per Grossi della Siena sempre 2 giornate. Un turno di squalifica invece per Nocerino e Parravicini del Siena, entrambi giocatori impegnati appunto nelle semifinali e dunque non ci saranno, quantomeno per le gare di andata. Per quanto riguarda invece il mercato, che insomma è stato l'alone intorno al quale si è svolta questa settimana di Coppa Italia, oggi è il giorno della decisione del Milan. Milan che ha fatto sapere di attendere fino alle 18:30 la decisione del Manchester City su Tevez, prestito gratuito, di nuovo la richiesta dei rossoneri. Se c'è il sì entro le 18:30 arriva Tevez, altrimenti Maxi Lopez, che tra l'altro è già stato questa mattina in visita nella sede di Via Turati, insomma si risolverà questo lunghissimo tormentone. Ecco Carlo, dall'Australia invece aspettavamo la finale del doppio femminile con le nostre Vinci ed Errani, invece non è andata un granché. No, non è andato un granché, anche se lo ricordiamo, per la prima volta 2 italiane arrivavano in finale in un torneo dello Slam, hanno perso contro una grande coppia, Kuznetsova e Svonareva, in 3 set peraltro molto combattuti, 5-7, 6-4, 6-3, 2 ore e 18 minuti di gioco, ma una medaglia d'argento bellissima. Va bene, grazie a Carlo Genta. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.